Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Secondo appuntamento di questa settimana insieme all'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Un saluto a tutti da Francesco Galante, ma un saluto particolare lo facciamo a Gianluca Codognato, che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco e buongiorno ai radioascoltatori. Allora, l'argomento che oggi andiamo a toccare è insomma un argomento che più volte abbiamo trattato, quello delle maxi bollette, che però in questo caso non vanno a toccare un privato, ma addirittura una parrocchia, no? Una parrocchia eccellente, quella del Redentore alla Giudecca, che lo scorso settembre si è vista recapitare da Enel Energia, Mercato Libero, si è vista recapitare una bolletta del gas da capogiro. Ci racconti un po'? Sì, allora, appunto, come dicevi te Francesco, non è chiaramente la prima volta che parliamo di maxi bollette, no, non vorremmo parlarne più, ma purtroppo sembra che di questi tempi siano tempestati gli utenti da queste bollette di conguaglio, soprattutto con cifre paurose. La caratteristica di questa bolletta è che però è arrivata questa volta a una chiesa, tra l'altro è una chiesa eccellente, come abbiamo sottolineato noi, come hai sottolineato tu, perché è quella la storica chiesa del Redentore alla Giudecca. E ecco, diciamo, da noi sono venuti appunto i responsabili della parrocchia con i capelli dritti per questa bolletta da 6.700 euro, che dopo, diciamo, si è abbassata a 5.930 euro dopo alcune, diciamo, trattative tra virgolette con Enel Energia. Però insomma sempre una mazzata, considerando che comunque la parrocchia pagava all'incirca 300 euro al mese per quanto riguarda appunto le bollette del gas. Ecco, stiamo parlando di bollette del gas. Ma era il gas non del riscaldamento, quindi mi viene da pensare. Sì, era il gas del riscaldamento, però non della chiesa. La chiesa è una chiesa imponente, si è provato a riscaldarla in alcuni periodi, però insomma si è visto che non c'è nulla da fare, anzi si fa solo peggio. Quindi in realtà il gas era usato per il riscaldamento del patronato. Sì. Ciò significa che appunto la cifra risulta ancora più eclatante, insomma, considerando che non è stata riscaldata la chiesa del Redentore. Certo. E quindi come al solito sono andati a rivedere, a rifare i conti, come sta capitando di questi tempi, possono tornare indietro, l'abbiamo detto più volte, addirittura nel conteggio di 5 anni, vero? Sì, allora in questo caso Francesco siamo ancora in una fase embrionale, nel senso che appunto stiamo affrontando in questi giorni la questione. C'è però da dire che a quanto dicono gli operatori dell'Enel Energia, loro sarebbero, uso il condizionale, sarebbero andati nella parrocchia, avrebbero cambiato il contatore e poi quando sono andati a ricontrollare hanno trovato questa cifra qua. In realtà i responsabili della parrocchia mi sottolineano che non hanno mai visto nessun operatore Enel Energia andare a cambiare il contatore e oltretutto il numero di matricola è identico al contatore vecchio. Cioè, insomma, c'è un errore di comunicazione, c'è qualcosa che non ci quadra. Stiamo cercando di andare in fondo a questa situazione, proprio perché non si capisce quando ci sia stato questo cambio di contatore e nasce sicuramente da là il problema. Ecco. Quindi cercheremo di capire, insomma, Enel Energia dove stia l'errore, insomma, da parte di Enel Energia, perché sicuramente è l'operatore, è il gestore che ha sbagliato qualcosa. Quindi voi state studiando il caso, mi raccomando, se vi capitano cose di questo genere, anche quando si cambia operatore, no? Si decide di cambiare gestore e ci ritroviamo improvvisamente con dei soldi che ci vengono richiesti molto più alti di quello che è il solito, magari vale la pena di disturbarci un attimino e farci aiutare dall'ADICO, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che potrebbe aiutarci. Nel risolvere questi problemi. Sì Francesco, è una cosa importante quella che hai detto, perché noi invitiamo sempre gli utenti a non lasciar perdere quando vedono una bolletta che non quadra, anche se non quadra di 50, 100 euro, insomma, rifare i calcoli può sempre tornare utile, perché ci si accorge che molto spesso, l'abbiamo già detto più volte ma è utile sottolinearlo, possono esserci degli errori. Noi come associazione abbiamo comunque dei buoni referenti con tutti gli operatori, con tutti i gestori. Devo dire che forse anche per la nostra tenacia ci vengono spessissimo incontro, sempre incontro, per cui ecco, riusciamo a risolvere anche molte situazioni. Con Helen in particolare abbiamo un ottimo referente, vogliamo sottolinearlo perché ecco, non vogliamo sempre parlare male dei fornitori, perché comunque in ogni caso ad esempio, c'è dialogo, insomma. Cioè, abbiamo diciamo, con la nostra tenacia, devo dire, abbiamo instaurato un dialogo che comincia a diventare veramente propositivo. Beh, questo fa ben sperare, insomma. Dovrebbe essere così con tutti, sì. Ma almeno insomma con qualcuno perlomeno queste cose capitano e succedono. Beh, bene, e quindi continuiamo quindi a tenere controllate le nostre spese e le nostre bollette. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it per questa e mille altri problemi che i nostri amici dell'Adico riescono in qualche modo a risolvere. Grazie quindi. Grazie a te, Francesco. A Gianluca. Grazie. Codognato, ci risentiamo tra qualche Grazie. Giorno. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.